in primo piano. Sono le 7:32 minuti, una buona giornata da Laura Bettini. Vediamo insieme i quotidiani di quest'oggi, di questo sabato, e lo facciamo a partire dal Sole 24 Ore. Sono particolarmente ricchi, ovviamente ci sono molte opinioni, molte considerazioni su appunto le decisioni che sono state prese in vista della ripartenza, chiamiamola così, di lunedì prossimo. Cominciamo dal Sole 24 Ore, Sole 24 Ore che tra l'altro, lo dico subito, propone la seconda parte dello speciale dedicato al decreto rilancio con tutti gli approfondimenti. È un inserto estraibile con appunto dettagli che vedremo tra poco. Comunque vi leggo qualche titolo: Colf e Badanti, reddito di emergenza, congedi parentali, bonus babysitter, contratti a termine, licenziamenti, insomma un po' di tutto per entrare nei dettagli del decreto. Sole 24 Ore che apre con questo titolo oggi: rischio Covid, INAIL e governo frenano ma si aggiungono i protocolli regionali. In arrivo la circolare bis sui contagi e responsabilità dopo la rivolta delle imprese, spiega il Sole. Catalfo, il ministro Catalfo, chiarimenti già dati, i tecnici sono al lavoro per fornire ulteriori dettagli. Patuanelli a Radio 24, l'avete sentito, datori non responsabili se rispettano i protocolli. Insomma, le rassicurazioni da INAIL e governo dopo la levata di scudi di imprese, commercianti e professioni, il riconoscimento dei casi di contagio Covid-19 come infortunio da parte dell'INAIL non assume alcun rilievo, spiega l'istituto, per sostenere un'accusa di responsabilità penale o civile del datore di lavoro. E così appunto si dettaglia il titolo di apertura del Sole 24 Ore. A centropagina, liquidità, il confronto sui prestiti alle imprese, Germania prima in Europa, più veloci e a tassi più bassi. BTP Italia, rendimento minimo all'1,4%, questo è un altro tema affrontato. Poi ancora Alitalia, Efromovic ritorna in pista. Il cambio di strategia del governo su Alitalia non ha scoraggiato German Efromovic. L'imprenditore sudamericano continua a seguire con attenzione il dossier ed è pronta a rilanciare l'interesse con due opzioni: una società totalmente privata con il controllo attraverso la holding Synergy o un partenariato pubblico-privato con una robusta partecipazione. Quanto ai potenziali esuberi, nel caso di società privata tutto il personale sarà trasferito nella compagnia controllata da Synergy. Questo per quello che riguarda appunto all'Italia. Andiamo a vedere qualche altra prima pagina prima di tornare sul Sole 24 Ore per approfondimenti. Andiamo al Corriere della Sera, riapertura tra le tensioni. Scontro Regioni-Governo, poi l'intesa. Dal 3 giugno si entra in Italia senza quarantena. Questa è l'apertura. Al centro pagina si ricorda il maestro Bosso, addio a Bosso, il maestro del sorriso, la musica, la malattia, l'amore per la vita, il pianista che emozionò tutti. E nelle pagine interne molto si scrive lui, maestro delle emozioni, così si scrive sul Corriere della Sera. Compositore, pianista, direttore d'orchestra, Ezio Bosso è morto a 48 anni, nonostante la malattia lo avesse frenato, era ancora pieno di progetti, compreso un concerto previsto per la prossima estate. Sempre dalla prima del Corriere della Sera, con l'app si vedrà dov'è il virus, e qui ovviamente si parla di Immuni, che per ora è assente, ma insomma arriverà. Casa ufficio sfida Big Tech. Articolo di Massimo Gaggi: lavoro da casa o dall'ufficio, per gli esperti la pandemia accentuerà le divisioni e i cambiamenti nella struttura delle aziende. Sarà forse una rivincita della campagna sulla città. Andiamo a Repubblica, 4 mesi per salvarci, questo è il titolo a tutta pagina, l'allarme dei sindacati, troppi senza lavoro, ora servono riforme, ecco le storie di chi non ce la fa. Dal 3 giugno riaperte le frontiere, le regioni convincono il governo, nei locali 1 metro di distanza. E poi ancora il Conte: il MES non serve, lo accetteremo solo se lo prende la Francia. 4 mesi per salvare l'Italia, spiega Repubblica, stremata dalla emergenza coronavirus. I sindacati lanciano l'allarme, troppe persone hanno perso il lavoro, servono le riforme. Intanto da lunedì ripartono molte attività con l'obbligo di 1 metro di distanza tra i clienti e dal 3 giugno riaprono le frontiere con il resto d'Europa. e per noi, aggiungiamo, dovrebbero riaprirsi le frontiere delle regioni. Poi c'è Concita De Gregorio che riprende appunto il tema portante di Repubblica oggi, alle radici della rabbia. Non è una possibilità, scrive, è una certezza. La rabbia generata dalla disperazione economica esploderà, non serve un indovino. Basta mettere l'orecchio a terra come si faceva al principio, quando non c'era internet e nemmeno il telefono. Su Repubblica ancora, ambiente e welfare, ricostruire in fretta, c'è un'intervista alla sindaca di Roma Virginia Raggi e poi un'intervista anche a Luca Zaia, il governatore del Veneto, rischio rivolte sociali, sì al modello Genova, e qui si intende il ponte di Genova. Io sono un contadino, niente Palazzo Chigi, questo sempre nella intervista a Luca Zaia, che cercheremo poi dopo di leggervi. C'è un'altra intervista oggi, molta intervista tutta pagina su Repubblica, anche quella al segretario generale della CGIL Landini, diritti, welfare e ambiente, rifacciamo l'Italia. Questo è il titolo e già ci fa intuire il contenuto, insomma, delle sue dichiarazioni. Uno spazio per Ezio Bosso, così dipingeva la nostra musica, di Gabriele Romagnoli, e uno spazio anche per lo sport, come si allenano Messi e Ronaldo, oggi ricomincia il calcio tedesco. Andiamo alla Stampa, riaperture, c'è l'intesa, Fontana, clima di odio contro la Lombardia. Qui, come poi vedremo sul giornale, un'intervista al governatore della Lombardia, dice tra l'altro: tanto veleno contro di noi, ma non resteremo indietro. Non si può tenere chiusa la regione più produttiva del paese, bisogna darsi delle regole e rispettarle. Sulla Stampa ancora, l'aritmetica impazzita della fase 2 del matematico Pier Giorgio Di Freddi, le norme sul distanziamento sociale, e scrive Di Freddi: riporto a caso uno dei tanti messaggi che mi sono arrivati sul cellulare. Norme sulla distanza sociale: in giro 1 metro, in chiesa 1,5 metri, al ristorante 2 metri, al parco 3, al mare 4. Ma sto virus è un geometra? In realtà la cosa è molto peggio se si vanno a leggere quelli che fin dai titoli bizantini si presentano come veri e propri manuali. L'articolo è molto lungo e dettagliato e ovviamente prende una piega matematica, comunque è sulla Stampa per chi appunto avesse curiosità poi dopo di approfondire questa questione in termini appunto matematici. Sulla Stampa anche la nuova Ungheria, Viktor è il sogno dell'Orbistan con i pieni poteri, e l'incidente al petrolchimico di Marghera, gravi 2 operai, ci ricorda la Stampa. Andiamo al Quotidiano Nazionale, le nuove regole, basta 1 metro, dimezzate le distanze obbligatorie nei locali e in spiaggia, limiti alle mascherine, le regioni possono ampliare le riaperture, dal 3 giugno libertà di spostamento e frontiere aperte, braccio di ferro sulle sanzioni, in arresto chi viola la quarantena. Centropagina, anche qui Ezio Bosso, vinto dalla malattia a 48 anni, ha testimoniato la forza della vita a un'Italia spaventata, la lezione del maestro. Un calcio alla paura, torna la Serie A tedesca, e con questo andiamo al Fatto Quotidiano. Contagi sul lavoro, già 40.000 denunce, scudo penale, Confindustria mente sul rischio INAIL. I 3 punti del Fatto Quotidiano oggi: cosa faremo dal 3 giugno, Fontana cauto a fasi alterne, Lombardia zero contact tracing, più armi italiane al Cairo, export 2019, smacco a Regeni e Zaki. Quindi prende una piega anche internazionale. Andiamo al Messaggero. Si riparte a distanza di 1 metro. Questa è l'apertura. Accordo con Palazzo Chigi sulle regole. Accolto il testo dei governatori. Conte, ora la responsabilità è vostra. Tavoli e ombrelloni più vicini. Sì ad incontri con amici. Dal 3 giugno viaggi tra regioni e frontiere. Un approfondimento che parte dalla prima sul Messaggero. Oggi i dati dopo 2 settimane di fase 2. Le pagelle regionali, la Lombardia è in bilico e l'esperto dice effetto riaperture, lo vedremo tra 7 giorni, insomma Questa fase nuova che parte da lunedì parte in controtempo rispetto all'arrivo dei nuovi dati su quello che sono stati gli ultimi 15 giorni. Le pagelle sulle regioni sono in arrivo oggi, ma solo tra 7 giorni ci sarà un quadro più preciso sugli effetti delle riaperture. La Lombardia sembra essere in bilico per l'emergenza terapie intensive. Non ci sono dati sull'effetto riaperture, bisogna aspettare un'altra settimana, conferma Stefano Merler della Fondazione Kessler. E diamo uno sguardo all'articolo di Mauro Evangelisti appunto sul Messaggero. I dati sono arrivati sostanzialmente in ritardo. Sappiamo che sulla base del decreto firmato dal ministro Speranza non può esserci un tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva per Covid superiore al 30%. La Lombardia sta superando quella soglia, anche se il numero dei malati si è ridotto, è in bilico. Va detto che ieri la regione governata da Fontana ha visto una riduzione dei pazienti in terapia intensiva. Altre situazioni problematiche, ma a livello rischio basso, sono in Piemonte e Liguria, mentre il Molise ha fermato il focolaio di Campobasso e sembra tornare a tassi di crescita dei casi molto bassi. E però appunto ci sono dati che arrivano in ritardo e non fotografano ancora gli effetti delle riaperture del 4 maggio. La pagella che conterà sul serio sarà stilata tra una settimana. Inoltre tutti gli strumenti che dovevano accompagnare la fine del lockdown sono drammaticamente in ritardo. L'app per tracciare i positivi non c'è e chissà se ci sarà mai, almeno nella versione coreana. L'esito, quindi più severa, l'esito delle indagini dei test sierologici su 150.000 italiani che ci devono dire quale sia la percentuale degli immunizzati lo avremo solo a metà giugno e anche il sistema di valutazione sulla base dei 21 indicatori sta pagando ritardi e flussi di dati a singhiozzo. Una situazione quindi non confortante al momento. Andiamo sul Giornale. Apertura a tutta pagina, virus comunista tira una brutta aria, scrive il Giornale. Odiatori violenti e intellettuali all'assalto del nord, minacce e insulti ai governatori di Lombardia e Piemonte. Ne abbiamo letto anche nell'intervista, quel piccolo passaggio che vi ho detto, dell'intervista al governatore Fontana. E Fontana appunto anche qui parla sul Giornale, dice c'è un piano politico contro di noi. E si ricorda la scritta Fontana assassino, una scritta con falce e martello firmata Kark. Il murales è comparso ieri a Milano e la prova del clima pesante di bugie e odio contro la Lombardia. Il governatore commenta una campagna politica. Sul Giornale c'è poi un'intervista a Silvio Berlusconi. A 48 ore dalla ripartenza mancano le regole pure i soldi, un caso i miliardi a Fiat e all'Italia, mentre Berlusconi dice scudo penale per imprenditori e bonus ai medici. Questi i due punti cardine della intervista che poi si trova nelle pagine interne, ma forse siamo arrivati al momento della viabilità, quindi ci fermiamo, ci troviamo tra pochissimo. In primo piano. Ed eravamo, ancora buongiorno da Laura Bettini, eravamo alle pagine del Giornale, le due sfide di Berlusconi, aiuti a medici e imprenditori, il cavaliere critico col governo, vergognoso, togliere il bonus ai sanitari, così appunto dice. Avrei certamente sospeso tutti i pagamenti per il 2020 in modo da non togliere risorse ad attività che già lottano per sopravvivere. Lo Stato con una mano continua a chiedere denaro ai cittadini e con l'altra non paga i debiti della pubblica amministrazione verso le imprese. Ecco, io credo che si debba davvero fare tutto il necessario adesso, subito, per evitare il collasso delle imprese e la perdita dei posti di lavoro. Questo 2020 deve essere considerato come un anno sabbatico in cui concentrare tutto il deficit possibile per mettere in sicurezza il 2021. Se lasciamo che le aziende chiudano, si mette in moto una spirale pericolosissima. Meno sono le persone che lavorano e più calano i consumi e i risparmi. E questo porta alla chiusura di altre aziende, porta a nuovi licenziamenti e così via. E significa anche minor gettito fiscale, più spesa sociale, perché naturalmente non possiamo lasciar morire di fame chi rimane senza lavoro e quindi fare più deficit. Occorre uno shock fiscale per la ripartenza con una flat tax a livello molto contenuto e occorre un poderoso taglio alla burocrazia con l'abolizione del regime delle licenze e delle autorizzazioni preventive per chi fa impresa. Naturalmente poi è necessario usare al meglio l'aiuto dell'Europa che sarà decisivo. Questo un passaggio dell'intervista appunto Silvio Berlusconi sul Giornale. Andiamo a Libero, tutti cercano aiuto. pochi lo ricevono, la Fiat chiede soldi, questo è il titolo di apertura. Il gruppo Elkann fa domanda per 6,5 miliardi garantiti al 70% dallo Stato, nulla di irregolare, ma chi ha sede in Olanda e Inghilterra non dovrebbe batter cassa ad Amsterdam e Londra. Da lunedì riapre quasi tutto, scrive ancora Libero, e dal 3 giugno spostamenti liberi. Andiamo al Manifesto, fase nera sul profilo della città di Venezia. Nel polo industriale di Porto Marghera esplode una fabbrica chimica, una nube tossica oscura il cielo di Venezia, feriti diversi operai, due sono gravi, gli allarmi inascoltati sulla sicurezza. Il sindaco Brugnaro, chiudetevi in casa, ma poi invita a tornare al lavoro. Sempre dalla prima del Manifesto, riapre tutto, Conte cede ai governatori, slitta ancora il decreto rilancio, Bruxelles, Lega e Forza Italia si spaccano, questo al momento della chiusura del Manifesto. L'olandese volante, FCA verso un prestito garantito dallo Stato, ci riporta sul tema di Libero poco fa. Il gruppo automobilistico verso un maxi finanziamento da 6,3 miliardi di euro, trattativa con Intesa San Paolo. Poi il dossier passerebbe alla SACE e da lì al Ministero dell'Economia per l'autorizzazione alla garanzia statale con un decreto ministeriale ad hoc. La procedura è prevista dal decreto liquidità. Sulla Verità, l'apertura, Conte ci allenta il guinzaglio, ma dovremo girare col metro. Il decreto rilancio latita, i soldi mancano, Giuseppe alleggerisce le restrizioni e affonda nel ridicolo. Le distanze di sicurezza passano da un metro all'aperto a due al chiuso, ma in chiesa sono 150 centimetri. E infine il Secolo XIX apre, Conte alle regioni, decidete voi, da lunedì riapertura a pioggia. E poi l'addio al musicista Bosso, il maestro che sorrideva alla malattia. Ezio ci ha detto quanto sia forte la fragilità. Così l'apertura del Secolo XIX. Ripartiamo dal Sole 24 Ore. Vi dicevo, c'è un inserto dedicato al decreto di rilancio, secondo inserto. C'è anche, però vorrei prima di arrivare all'inserto, segnalare l'intervento del direttore generale INAIL Giuseppe Lucibello. Istruzione chiare, ma una norma tutela meglio le imprese. Vi leggo giusto l'inizio, gentile direttore. La norma introdotta nel decreto Cura Italia, che tanto preoccupa il mondo delle imprese, interviene su tre distinti punti, prevedendo: 1) che in caso di accertata infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, l'INAIL assicura il lavoratore, la tutela assicura al lavoratore la tutela prevista dalla legge in caso di infortunio sul lavoro; 2) che le prestazioni di tutela assicurate dall'INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato, con la conseguenza astensione dal lavoro; 3) che gli oneri dei predetti eventi infortunistici sono posti a carico della gestione assicurativa nel suo complesso e non vanno a gravare invece sulla posizione assicurativa del singolo datore di lavoro. E poi si dettagliano queste tre posizioni. Mentre per quel che riguarda il decreto rilancio, c'è un approfondimento su un tema che tra l'altro riprenderemo nel corso di Si può fare, quindi a partire dalle 8:30, sanatoria a doppio binario, lavoro nero e clandestini. Il datore può far emergere un contratto subordinato con stranieri privi di permesso o può dichiarare la presenza di un rapporto di lavoro irregolare. L'articolo di Antonino Cagnoto e Giuseppe Maccarone precisa i contorni di quello che si può fare in questa sanatoria a doppio binario. Noi appunto ne riparleremo nel corso della trasmissione con Carlo Gabardini a partire dalle 8:30. Andiamo adesso a leggere qualche passaggio delle numerosissime interviste davvero ai governatori che sono diventati protagonisti della fase che parte da lunedì di questa riapertura. C'è Alessandro Trocino che sul Corriere della Sera racconta un po' tutto quello che è accaduto gli affondi antigoverno e il conflitto di strategie tra nord e sud, e riepiloga un po' la situazione. Il governatore campano De Luca, che dice: se non avessimo anticipato il governo con le nostre misure sarebbe stata l'ecatombe. E poi però ci sono tutti gli altri, il leghista Luca Zaia che guarda in Cagnesco l'irrequieto lombardo Attilio Fontane, alcuni governatori del sud che vorrebbero smarcarsi dal nord. Il lieto fine serale lo prepara il governo quando, vista la mala parata, ributta la palla e le responsabilità alle regioni. Una giornata di scontri che mai come ora mette in luce il difficile stato dei rapporti istituzionali tra centro e periferia, tra governo ed enti locali. Tra l'altro, gli enti locali, cioè, a proposito di interviste, quella al sindaco di Bari, Antonio De Luca, che è anche la guida dell'ANCI, presidente dell'ANCI, quindi l'Associazione dei Comuni Italiani, che insorge anche lui a sua volta, insorto anche lui a sua volta contro il livello superiore, le regioni e il governo. Dicono che lei nella riunione col governo in mattinata era stato piuttosto ruvido. Perché? Gli viene chiesto da Virginia Piccolillo. È semplice, avevamo chiesto lumi al governo sulle regole da applicare, ci aspettavamo linee guida chiare e soprattutto univoche. Invece Conte ci ha detto che, siccome alcune regioni ritenevano inapplicabili le regole INAIL, avrebbero lasciato loro la facoltà e la responsabilità di accorciare quelle distanze. Ma non è logico, perché il virus mica riconosce le frontiere amministrative, ha sempre le stesse modalità di diffusione da una regione all'altra. E allora ho detto: benissimo, visto che l'autorità sanitaria locale siamo noi sindaci, facciamo un passo indietro, ci riprendiamo quel potere previsto dall'articolo 50 del testo unico e decidiamo ciascuno per sé come mettere tavoli di bar e ristoranti e ombrelloni in spiaggia. Era una minaccia finta? No, l'ho proprio detto ufficialmente. Qui, adesso, dalla cabina di regia, ci riprendiamo quel potere ceduto al governo. L'avevamo ceduto noi e noi ce lo riprendiamo, ha detto di avere detto il sindaco di Bari e presidente dell'ANCI. E quindi, insomma, un tutti contro tutti che poi si è risolto con quello che sentiamo raccontare nei nostri giornali radio sulle regole. Ma appunto, dicevo, le interviste ai governatori, c'è Zaia, uno di quelli che vengono nominati più spesso in questo periodo, il governatore del Veneto. La sua azione di contrasto alla diffusione del virus sembra avere funzionato, e allora gli si chiede, tra l'altro, insomma, se vede nel suo futuro un premierato. E lui dice: no, io vengo dalla campagna, insomma, mi interessa al momento principalmente curare le persone e far ripartire il Veneto, dice con precisione in questa intervista di Concetto Vecchio. Mi interessa curare le persone, far ripartire il Veneto. Abbiamo perso 50.000 posti di lavoro, 35.000 solo nel turismo, dice Zaia Repubblica. Perché il Veneto ha avuto 1.800 morti e la Lombardia 15.000? Non si possono fare paragoni, risponde lui, non abbiamo città metropolitane, vo a 3.000 abitanti. Il virus ha toccato soprattutto la provincia lombarda, hanno avuto una buona dose di sfortuna, è stata come una bomba. Ma il Veneto non ha una migliore sanità di territorio? Ma la sanità non è un abito su misura. Insomma, incalza Concetto Vecchio, Fontana non è stato meno bravo di lei? Ma dai, risponde, basta confronti. Qual è stato il giorno più brutto della pandemia? Il 27 di marzo, il giorno del mio compleanno, risponde Zaia. Avevamo centinaia di persone in terapia intensiva. Avevo mandato un camion in Svizzera per comprare 50 ventilatori, non arrivava, ci ha messo 10 giorni a tornare. E così via, insomma, è stato incalzato molto per armarlo contro il governatore Fontana, ma lui non ha reagito in questa intervista a Repubblica. E Fontana invece a sua volta parla sulla stampa e sul giornale, come dicevo, e dice: contro di noi solo veleno, ma non resteremo indietro. C'è un clima avvelenato che qualcuno ha voluto creare nel paese, un clima anti-lombardo, e chi ha creato questo clima dovrebbe farsi un esame di coscienza, perché poi i risultati sono questi. E cioè, appunto, come dicevamo, di quelle scritte sui muri che fanno intuire che c'è un malcontento. Trovate l'intervista al governatore Attilio Fontana sulle pagine della Stampa e del Giornale. Noi purtroppo ci dobbiamo fermare qui perché c'è GR24. Ci ritroviamo alle 8.30 con Si può fare.